Storiacce d'autore, a cura di Raffaella Calandra, in collaborazione con Milano Nera. Uno scrittore, un fatto vero e un testo composto proprio per noi. Ogni domenica in queste storiacce la cronaca la ascolterete dalla voce e dalla penna di un autore, sempre a partire da un fatto vero. Palermo, 23 settembre 1983. Una rapina, la morte di una donna, l'ombra dell'omicidio d'onore. Caro Alessio, è da tanto tempo, sai, che avrei voluto rivolgermi a te, raccontarti tutto, ma dovevo aspettare. Le mie parole potevano apparire solo come una favola crudele, senza alcun possibile lieto fine. Avrei magari popolato di fantasmi i tuoi sogni e reso più complicata e sofferta la tua vita. Ma adesso, dopo quasi 30 anni, è arrivato il momento. Voglio raccontarti i fatti senza suggerirti altro, senza additarti colpevoli e indicare soluzioni. Sarai tu, ormai, a farlo, a capire come so che saprai capire. Perdonami se chiedo aiuto a un estraneo per ricostruire la mia, la nostra vicenda. A me è mancata quell'istruzione che avrei desiderato, e poi avrei paura di essere sommersa dalle emozioni, di parlarti solo da madre, di storpiare col sentimento la verità delle cose. 23 settembre 1983, Acquasanta, borgata marinara di Palermo. È ancora estate, fa caldo quel pomeriggio. In un negozio di articoli sanitari c'è una ragazza, si chiama Rosalia Pipitone, ha 25 anni. Sta conversando al telefono a gettoni, è un'abitudine che forse ha preso per poter parlare con maggiore libertà lontano da casa. Nel negozio entrano 3 rapinatori, uno di loro ha una pistola. Si vanno a consegnare l'incasso, 250.000 lire, ma si accorgono della ragazza al telefono. I giornali scriveranno poi che Rosalia si è mossa di scatto e che i banditi hanno creduto volesse reagire. Un rapinatore le spara addosso, i 3 fuggono, ma dopo qualche istante l'uomo con la pistola rientra, si avvicina a Rosalia ferita e mira al cuore. La ragazza morirà poco dopo in ospedale. I primi dispacci di agenzia parlano di un'azione di balordi finita in tragedia, di una possibile testimone eliminata. In pochi sollevano dubbi, eppure le modalità dell'omicidio dovrebbero essere inequivocabili. Dell'omicidio cercato, dunque, e non di una rapina finita male. L'uomo con la pistola, tra l'altro, è rientrato per dare il colpo di grazia come nelle esecuzioni di mafia. Già, la mafia. I giornali non sanno niente di Rosalia, ma nel quartiere tutti conoscono la storia di quella ragazza bella e irrequieta che a 20 anni ha saputo alzare la testa e reggere lo sguardo di suo padre, Don Nino. Lei, di imposizioni, di quella parola così antica e crudele, onore, non ne vuol sentire parlare. Rosalia vuole studiare, sentirsi libera di amare chi vuole, a costo di una sfida aperta. Decide di scappare da casa, ma la sua non è la classica fuitina come quella di tante sue coetanee dei quartieri popolari, una messa in scena con la benedizione delle famiglie per sanare una relazione, una gravidanza inaspettata. La sua è una fuga vera, da ribelle, che mette in discussione le regole della famiglia, i codici di un clan, la rispettabilità sociale di chi comanda. Per creare questo putiferio a Rosalia non occorrono Kalashnikov o denunce, allarma dei suoi sentimenti. Ma la fuga finisce presto. Don Nino ha tanti amici che contano. Rosalia e il suo innamorato vengono rintracciati, sottoposti a processo sommario in nome dei vecchi codici non scritti ma rispettati. Si sposano, nasce un figlio. Ma è un legame nato male, rovinato dalle costrizioni, da una sentenza imposta da altri. Rosalia trova pace solo parlando con un cugino, Simone, amico sin dall'infanzia, persona che la sa ascoltare, che riesce a far parlare il linguaggio dei sentimenti, quello che per la famiglia è il peggior nemico, la più pericolosa delle trasgressioni. Più sente crescere l'ostilità intorno a lei, più Rosalia si lega a Simone e più, per la legge dei padri, dà scandalo. Lei, la figlia di Don Nino, donna sposata, madre di un figlio che frequenta un uomo fuori dal matrimonio, è troppo. Non è più la breve fuga di una ragazzina, è un tradimento che deve essere punito col sangue. Ci vorranno anni prima che parte della verità emerga. Sono ancora una volta i pentiti a parlare. 1, 2, 3 di loro raccontano la loro storia su Rosalia. Quella rapina, diranno, era solo una copertura. Don Nino aveva dato ordini precisi. Uccidetela, fermate lo scandalo che ci ha infangato, ma fate in modo che sembri una disgrazia, un errore fatale. Nessuno deve poter dire che la figlia di un boss possa essere vittima di un agguato. Ne andrebbe del buon nome della famiglia. Simone segue la sorte di Rosalia. Pochi giorni dopo la rapina si lancia dal balcone del suo appartamento. Suicidio viene deciso, ma anche per lui la storia va riscritta. Afferrato e gettato nel vuoto, raccontano i pentiti. Don Nino viene arrestato, processato, ne esce pulito. Non ci sono prove e l'omicidio di Rosalia resta impunito. Poi, un giorno, Alessio, il figlio di Rosalia, che all'epoca del delitto aveva solo 4 anni e che ormai un uomo fatto, maturo, con un lavoro onesto e una forza d'animo che sembra proprio quella di sua madre, decide che è arrivato il momento di capire. Torna nel quartiere, interroga, esplora, fruga, confronta, indaga. Chiede l'aiuto di un giornalista per mettere in ordine tutto il materiale. Ne esce fuori un libro. A quel punto, novembre 2012, l'inchiesta della magistratura si riapre per scoprire e magari condannare gli assassini di Rosalia Pipitone. E così, caro Alessio, adesso sono sicura che non ti fermerai e che troverai tutte le risposte alle domande che non potevi esprimere quando ti ho lasciato, quando avevi solo 4 anni. Mi fa impressione sapere che hai più di 40 anni e io sono rimasta una ragazza di 25, ferma per sempre nella giovinezza. Adesso questa storia, se vuoi, potrai raccontarla per intero ai tuoi figli. Gianmauro Costa, in libreria con Festa di Piazza. Sellerio Editore, 298 pagine, €11,90. Per riascoltare e scaricare tutte le storiacce d'autore, il sito è radio24.it. Ci trovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce, sul blog Storiacce, su Twitter invece l'account è Raf Calandra. Ciao a tutti, al prossimo weekend.